TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Un automobilista è morto, l'autista di un pullman è rimasto seriamente ferito. Alcuni ragazzi a bordo del mezzo hanno subito lesioni in un incidente stradale avvenuto stamattina intorno alle 7 a Maniago sulla regionale in direzione di Udine. Un'auto si è scontrata frontalmente con una corriera. La vittima, un 43enne di Vajont, aveva la patente sospesa per sorpasso pericoloso. E proprio a Maniago ieri sera in pieno centro si è verificato un accoltellamento fra due gruppi di ragazzi. Dopo un litigio è comparso un coltellino, tre i feriti, nessuno in maniera grave, una 25enne è stata ferita più seriamente alla coscia. 4 giorni per approvare la finanziaria regionale per il 2026. Da oggi la manovra di stabilità passa al vaglio dell'Aula. Più di 6 miliardi e mezzo le risorse a disposizione per l'anno prossimo, 3 miliardi e 7 per la sanità. La migliore giovane ricercatrice del 2025 nel suo campo, l'astrofisica, quello che fu anche di Margherita Hack, il premio assegnato dal CNR, il Centro Nazionale delle Ricerche, è andato a Valeria Grisoni dell'INAF. Triestina, under 35, studia archeologia galattica, l'abbiamo intervistata. Sono il primo responsabile di quanto è accaduto, lo ha detto ieri sera mister Costa Rugnaic, allenatore dell'Udinese, dopo la sconfitta per 2-1 subita dal Genoa al Friuli. Sono deluso e arrabbiato per l'approccio e per il fatto che i ragazzi devono capire che partite come questa si deve fare di tutto almeno per non perderle, ha affermato. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Lara Zani e Antonio Cagliazza. Un uomo di 43 anni ha perso la vita questa mattina a Maniago nello scontro frontale fra la sua auto e un autobus interurbano dell'ATAP con a bordo una 15ina di studenti. Alcuni di essi sono rimasti lievemente feriti, 8 in tutto i passeggeri dell'autobus accompagnati in ospedale per accertamenti. Non avrebbe dovuto essere su quella strada Fabio Floriduz, 43enne di Vajont, deceduto questa mattina poco prima delle 7 lungo la regionale che collega Maniago e Spilimbergo. La sua patente era sospesa proprio per un sorpasso pericoloso. Secondo i primi rilievi, l'uomo avrebbe tentato di sorpassare un trattore, poi, accortosi della corriera che sopraggiungeva in direzione opposta, sarebbe rientrato urtando però la parte posteriore del carro. Da lì la perdita del controllo del mezzo e lo scontro fatale con l'autobus che trasportava una 15ina di ragazzi e ragazze, 8 dei quali accompagnati in ospedale con ferite lievi. Ferito gravissimo invece l'autista, un 59enne di Spilimbergo. Cristian Moni è funzionario dei vigili del fuoco del comando di Pordenone. Intervento complesso per l'estricazione del conducente dell'autobus e la sinergia con 118 ci ha permesso di estricarlo. Ci è voluto più di un'ora per fare queste operazioni. La strada, in un tratto in cui la velocità è spesso sostenuta, è rimasta chiusa per ore. Sotto sequestro i 3 mezzi coinvolti, indagano i carabinieri. Maniago, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. E proprio a Maniago ieri sera è avvenuto un episodio di violenza ancora da chiarire nei dettagli. Poco dopo le 18.30, tra la centrale Piazza Italia e la zona della stazione ferroviaria, due gruppetti di giovani del circondario fra i 19 e i 25 anni, 8 in tutto tra ragazzi e ragazze, 4 da una parte e 4 dall'altra, hanno avuto un acceso diverbio al culmine del quale è spuntato un coltellino svizzero. Una ragazza di 25 anni è stata ferita a una coscia, mentre il suo fidanzato e un ragazzo del gruppetto rivale hanno riportato piccole ferite superficiali. Sono stati chiamati i soccorsi e tutti i protagonisti dell'episodio sono rimasti sul posto, fornendo le rispettive versioni ai carabinieri. Non si è trattato di una rissa, hanno fatto sapere i militari dell'arma, e ora le varie posizioni dovranno essere valutate in vista di possibili denunce per lesioni. La 25enne ferita è stata condotta all'ospedale di Pordenone e guarirà in pochi giorni, mentre i due ragazzi sono stati medicati sul posto. La politica, maggioranza e opposizione in Consiglio regionale da stamattina dibattono sulla legge di stabilità, cioè la finanziaria che alloca le risorse per l'anno prossimo fra i vari settori. Antonio Callegari, capogruppo della Lega e relatore di maggioranza, i punti notevoli di questa manovra? Beh, è una manovra innanzitutto che affronta l'emergenza alluvione intervenendo subito con fondi senza aspettare quelli dello Stato. È una manovra che programma e mette in sicurezza i conti della sanità per i prossimi 3 anni, aumentandoli, arrivando a 300 milioni in più nei 3 anni. È una manovra che pensa anche a bisogni concreti dei cittadini, prorogando al 2028 il sostegno ai pensionati con la minima di Regione Friuli Venezia Giulia, l'unica regione che ce l'ha, che è una piccola, diciamo così, tredicesima per i pensionati con pensione minima che arriva ogni anno in maniera automatica direttamente dall'INPS. Andrea Carli, del PD, relatore di minoranza, le principali obiezioni a questa manovra? La principale obiezione è che ovviamente le risorse a disposizione sono enormi rispetto solo a 4 anni fa, stiamo parlando di 2,5 miliardi in più rispetto a 4 anni fa. E questo dovrebbe consentire di risolvere problemi importanti, mentre invece negli ultimi 4 anni l'economia del Friuli Venezia Giulia è cresciuta molto meno rispetto al resto d'Italia. Questo va abbinato anche al fatto che c'è una carenza di attrattività, non solo la regione non riesce ad attirare nuovi lavoratori di cui hanno bisogno le imprese, ma non riesce neanche a trattenere i propri ragazzi che se ne vanno all'estero o altrove. Questo a causa di misure che sono assolutamente poco incisive e di cui invece noi faremo delle proposte alternative. Trieste, Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia. Si prevede accesa e certamente interessante la seduta di oggi pomeriggio del Consiglio Comunale di Trieste, che ha all'ordine del giorno la cabinovia. Al terzo punto infatti figura la relazione dell'assessore al bilancio Everest Bertoli, con la quale si chiede all'Aula l'approvazione di una variazione urgente al bilancio di previsione 2025-2027, una manovra volta a riallocare fondi comunali per finanziare la cabinovia metropolitana fra il Porto Vecchio e il Carso. Il tema era anche stato oggetto di un'apposita richiesta di convocazione dell'Assemblea Municipale. L'inizio dei lavori è previsto alle 17. Dopo aver distratto un addetto alle vendite, ruba una bicicletta in esposizione, bicicletta del valore di 17.000 euro. La carica su un furgone, ma il personale del negozio lo insegue e riesce a recuperare il bottino. Era accaduto in ottobre in un negozio in provincia di Udine. Il malvivente era però riuscito a dileguarsi. I carabinieri della stazione di Tarcento, estrapolando i dati dal sistema elettronico di lettura targhe presente in diversi punti e analizzando diversi filmati, sono però riusciti a dare un nome e un volto alla persona e a denunciare il presunto autore del crimine, un pluripregiudicato residente all'estero, ma già noto alle forze dell'ordine, che nei giorni successivi al furto della bicicletta aveva commesso altri reati fuori regione per i quali era stato arrestato. Oltre 1.300 studenti delle scuole superiori al Salone delle Professioni di Trieste per conoscere le opportunità offerte dal mondo del lavoro. Fra gli ospiti Vincenzo Schettini, prof di fisica e influencer. Un caloroso applauso dei 1.300 studenti di 12 superiori tra Trieste e Gorizia ha accolto il professore di fisica più famoso d'Italia, Vincenzo Schettini, tra i protagonisti del nuovo format dell'evento proposto da Smart Future Academy, con al centro discorsi ispirazionali. Lo youtuber ha portato un messaggio chiaro. Bisogna ritrovarsi poi alla fine le materie, non c'è niente da fare. Quando c'è quello sparkle, dicono gli inglesi, che accende, che può accendere soltanto un insegnante, è fatta. Credete nei vostri progetti e non dovete mai pensare che non siano realizzabili. Messi da parte gli stand e le aziende, è stata una mattinata all'insegna delle parole di chi ha intrapreso la strada del mondo scientifico, sia imprenditoriale che accademico. Tra queste, Valentina Pereira, PhD, ricercatrice, biotecnologa. È la fascia di età giusta a cui parlare della passione che sin da bambini si può provare, come quella che mi ha portato a seguire la strada per cui adesso sono una ricercatrice in biotecnologie. Un lavoro che rende la mia vita quotidiana divertente come quando giocavo da bambina, quindi è l'audience giusta. Gli interventi sono stati seguiti dalle domande degli studenti che spaziavano anche sui temi dell'alternanza casa-lavoro o su questioni salariali. Il format ha già raggiunto oltre 330.000 studenti in tutta Italia, connettendo istituzioni, mondo del lavoro e scuola. Donatella Bigotti, dirigente scolastico MIUR. Le attività di orientamento negli ultimi anni sono state potenziate da parte del Ministero, però il messaggio più grande che dobbiamo dare ai ragazzi è che devono avere fiducia in loro stessi e scoprire i loro talenti. Sul palco anche l'assessore al lavoro e all'istruzione Rosolen. Avete un mare di opportunità davanti e compito della politica garantire che siano accessibili a tutti, ha detto. Uno dei temi proprio il welfare per i giovani, questione cara al principale tra gli organizzatori, la Camera di Commercio Venezia Giulia, Antonio Paoletti, il presidente. Pochi tornano, ma il male che ha, portano ricchezze in altri paesi, si sposano in altri paesi, fanno i figli in altri paesi, e noi ci manca la classe del futuro, i dirigenti della nostra società. L'importante sarebbe fare una sessione a parte per le famiglie, perché le famiglie hanno un ruolo importante nell'indirizzo dei loro figli. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Davide contro Golia, ossia la lotta del debole contro il gigante, è il titolo della manifestazione organizzata stamattina a Udine dall'Osservatorio regionale antimafia. Golia è la piovra della mafia, anzi delle mafie. Davide siamo tutti noi, più deboli ma più numerosi. Al centro dell'incontro, infatti, l'importanza del gesto individuale contro il sistema criminale. Il Friuli Venezia Giulia ha saputo dimostrare la capacità di denuncia e resistenza ai tentativi di infiltrazione mafiosa. Lo dice la procuratrice di Trieste, Patrizia Castaldini, in qualità di guida della direzione distrettuale antimafia, a margine di un evento organizzato con le scuole di Udine dall'Osservatorio regionale antimafia. Tuttavia la guardia rimane alta perché, dice Castaldini, la criminalità organizzata arriva dove c'è ricchezza, anche nel turismo. Quella che è l'edilizia, quelli che sono gli appalti, quelli che sono tutta l'attività, per esempio, di ristorazione, di alberghi, sulla costa soprattutto, ma anche all'interno, tutto quello che è la ricchezza, tutto quello che può riguardare anche, attività invece che sono in crisi, attività che possono essere oggetto di un riciclaggio. Poi si è rivolta ai giovani invitandoli a riflettere. Dietro la vendita di droghe c'è la criminalità organizzata, ha spiegato loro. Al centro del dibattito i gesti individuali contro il sistema criminale, come quello di Ivan Petrucco, amministratore delegato dell'azienda di costruzioni friulana, ICOP. Lui, 3 anni fa, ha trovato il coraggio di denunciare un tentativo di estorsione da parte di un clan di 'ndrangheta durante l'esecuzione di lavori in Calabria. 6 gli arresti che ne sono seguiti. Lo Stato ha fatto il suo? Sì, direi di sì. Soprattutto non ti ha fatto sentire solo e sei stato accompagnato potendoti fidare di alcune persone, quella fa la differenza. Per l'Osservatorio regionale antimafia è fondamentale la sensibilizzazione nelle scuole. L'esempio è quello del liceo Copernico di Udine. La presidente dell'osservatorio, Barbara Clama. Sono andati più volte in Sicilia, hanno visitato i luoghi della criminalità organizzata e soprattutto hanno raccolto le testimonianze di chi è stato capace di compiere un gesto individuale di dire no alla mafia. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. A Trieste si torna a raccogliere beni alimentari e per l'igiene da mandare nelle zone più colpite dalla guerra in Ucraina, soprattutto ad anziani, donne e bambini. Il progetto Ponti Amici è gestito da volontari italiani e ucraini che partiranno fra un mese. Chi volesse offrire cibo che si conserva facilmente, come zucchero, olio vegetale, pasta, grano, farina, cibo per cani e gatti e anche saponi e detersivi, può portarli nell'atrio del liceo Carducci Dante in via Giustiniano o in quello di via Corsi fino alle 16 di oggi e poi ancora giovedì dopodomani dalle 7:30 alle 16. E ora la parentesi meteorologica, il cielo è sereno su tutta la regione ed ecco le temperature alle 11. A Trieste 13 gradi, a Udine e a Gorizia 11 gradi e mezzo, a Pordenone 11, Forni di Sopra e Piancavallo 8 gradi e 5, Tolmezzo 8 gradi, Tarvisio 6 gradi e 5, Sappada 1 grado, Lussari e Monte Zoncolan 7 gradi, a Grado 10, a Lignano 9. E vediamo le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per possibili velature. In serata possibile formazione di foschia o nebbia sulla bassa pianura. C'è anche una giovane astrofisica del Friuli Venezia Giulia fra i più promettenti ricercatori under 35 individuati dal CNR. Si chiama Valeria Grisoni e il premio per lei, mamma di 2 bimbi piccoli, non riconosce solo la qualità della ricerca scientifica fin qui portata avanti, ma anche il grande impegno nel bilanciare tra vita familiare e carriera accademica, percorso non facile in Italia. La migliore giovane ricercatrice del 2025 nel suo campo, quello che fu anche di Margherita Hack, l'astrofisica. Il premio assegnato dal CNR, Centro Nazionale delle Ricerche, è andato a una ricercatrice dell'INAF di Trieste. Triestina lei stessa, under 35, Valeria Grisoni, studia archeologia galattica. Come degli archeologi cerchiamo di ricostruire la storia di formazione ed evoluzione delle galassie, con particolare riferimento alla nostra galassia, la Via Lattea, a partire dalle informazioni che abbiamo sulle stelle, sulle loro abbondanze chimiche e le loro età, quindi le stelle come fossili per ricostruire la storia delle galassie. Com'è intraprendere una carriera nel mondo della ricerca in Italia? C'è un forte problema di precariato e infatti dove sono andata a ritirare il premio alla sede centrale del CNR ci sono attualmente mobilitazioni in corso in cui i giovani precari stanno manifestando per mettere in luce questo problema che è purtroppo strutturale del precariato in Italia in questi giorni decisivi in cui si sta decidendo la legge di bilancio. Spesso appunto tanti sono costretti a dover andare all'estero pur magari volendo restare. Tanto più complicato per una giovane donna che voglia anche essere mamma. Valeria Grisoni di Bimbi ne ha due, di 1 e 3 anni. È molto tosto, nel senso che è un ambiente, quello accademico, molto competitivo e quindi una mamma che si assenta naturalmente per appunto alcuni mesi spesso viene lasciata indietro in questo e quindi è difficile riuscire a tenersi al passo e io sono fortunata perché ho un grande supporto sia da mio marito che dalla famiglia e qui i nonni che ci aiutano molto, però spesso è difficile e insomma penso ci sia ancora molto da fare, si è migliorati rispetto ad anni fa e ci sono più donne nella scienza, ma ci sono tante donne che purtroppo devono lasciare o lasciano perché è difficile conciliare vita accademica e carriera scientifica con la vita personale e il crescere una famiglia, soprattutto dei bambini piccoli. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli, Venezia Giulia. Siamo allo sport e ritorniamo sulla sconfitta subita ieri dall'Udinese che ha perso in casa per 2-1 contro il Genoa. I friulani hanno giocato un brutto primo tempo andando in svantaggio su rigore a opera di Malinowski. Migliore l'approccio nella ripresa con il pareggio di Piotrowski. Poi la rete decisiva in contropiede dei rossoblù di De Rossi nel finale con Norton Caffi. Partita vista dalla tribuna a causa squalifica dall'allenatore Rugnajc, che ha comunque voluto metterci la faccia in conferenza stampa post partita. Sentiamo la sua analisi. Nella preinfezione di gioco non ho visto una buona prestazione, non abbiamo giocato molto gli uni per gli altri, in alcuni momenti della prima frazione di gioco ci è mancata la scintilla. E sono stato veramente deluso dal nostro approccio alla prima frazione di gioco. Posso capire i tifosi, quello che hanno provato vedendo una squadra così sul campo. Poi siamo finiti sotto, abbiamo concesso un rigore inutile. Nella seconda frazione di gioco siamo usciti da spogliatoi meglio, abbiamo pareggiato la partita e se non si può vincere bisogna almeno portare a casa un punto. Nella fase difensiva abbiamo commesso alcuni errori e siamo stati puniti dal Genoa. Michele Pittacolo, ciclista paralimpico, racconta la sua storia nel documentario in friulano in onda questa sera alle 21:25 su Rai 3 Bis, il canale 810, per l'ultima puntata di Straordinari, la serie che ritrae la vita quotidiana di persone con disabilità. Ce ne parla Andrea Saule. La storia di Michele, promessa delle due ruote, dei dilettanti alla mountain bike, una carriera avviata con un punto di svolta. In allenamento nel 2007 vittima di un incidente stradale che gli causa una paralisi cerebrale e danni irreversibili. Da lì per lui inizia una nuova sfida. Michele Pittacolo, campione paralimpico orgoglio della nostra regione, è il protagonista dell'ultima puntata di Straordinari, in onda in friulano stasera alle 21:25 su Rai 3 Bis, canale 810. E mi hanno detto che ho avuto questo grave incidente, mi ha trazzato nella macchina, ma io da questo incidente non mi ricordo di nulla, perché 3 mesi la mia vita sono cancellata. Per molti l'incidente avrebbe potuto rappresentare la resa, per Pittacolo è l'inizio di una seconda vita sulle due ruote. Dopo numerosi interventi ed estenuanti terapie riabilitative, riprende a gareggiare e a vincere. Conquista il bronzo alle Paralimpiadi di Londra, 6 titoli mondiali e più di 50 campionati italiani. E a 55 anni è ancora in strada, tanto da arrivare 8° lo scorso agosto ai mondiali, con la passione che rimane quella di prima, quella di un ragazzo nato in sella. Un percorso non lineare e metaforicamente fatto di molte cadute, di blackout mentali legati alla propria disabilità, con cui si confronta ogni giorno e che ha curato grazie anche al lavoro di specialisti del Gervasutta. Il trionfo da ricordare? Il mondiale, crono vinto con 1000 difficoltà a Maniago, a 2 passi da casa, nel suo Friuli. Il 5 di agosto sono stato sfasso in mondiale a Maniago, quindi vestì la maglia della propria nazione e partecipa tra la propria tiara, la che ti aggiunge il tifoso, la che ti allenis, pensi che sei il massimo per un atleta. per me e per il Friul è stato, secondo me, il più grande risultato che ho fatto dalla mia carriera. Si conclude con questa puntata la serie documentaria Straordinari. Ogni episodio ha offerto una narrazione intima e autentica di persone con disabilità, età e percorsi di vita diversi, mettendo in luce temi universali come la resilienza, la famiglia, la passione e l'amore. La serie è stata diretta da Dorino Minigutti e prodotta da Agherose e realizzata con il sostegno della Regione, dell'Arlef e tra gli altri del Comitato Paralimpico Regionale del Friuli Venezia Giulia. Pier Valerio Reinotti, già pubblico ministero e giudice, presenta il suo libro Il gioco del biliardo, edito da Battello Stampatore, in dialogo con Antonio De Nicolo, ex capo della Procura triestina, all'antico Caffè San Marco di Trieste alle 18. Un giallo nel quale si intrecciano quattro storie e il gioco del biliardo diventa metafora della vita, come ci racconta l'autore stesso. Nasce, come tante altre cose che ho scritto, dalla presunzione di creare dei personaggi, ecco, e delle storie. È anche un modo di liberarmi, è stato per me scrivere sempre un modo di liberarmi dal tono accademico e formale a cui mi obbligava il mestiere che facevo. Insomma. E quindi ha scelto la strada del giallo? Sì, del giallo, anche perché altre strade sono più diciamo difficili, nel senso che per scrivere una biografia bisogna avere qualcosa da raccontare ed essere sicuri che interessi a qualcun altro. Diciamo che il libro giallo è meno impegnativo, ecco. I personaggi di questo libro giallo chi sono? Questo libro giallo, diciamo, a suo modo particolare, perché sono quattro, diciamo, storie che si intrecciano tra loro e che giustificano il titolo, che altrimenti è difficilmente comprensibile. Il titolo significa che, come nel gioco del biliardo, si calcolano tutte le traiettorie possibili delle palle, ma così ogni tanto qualche palla viene colpita malamente, di sguincio. E così anche nella vita il caso diciamo interviene pesantemente nel destino degli uomini. Ecco. La vita è tutto sommato un gioco del biliardo in cui si cerca prima di tirare un colpo e poi certe volte riesce e certe volte no. Quindi il biliardo come metafora della vita. Sì, come metafora della vita. Queste sono appunto quattro storie diverse che però alla fine dovrebbero, se il lettore me la fa buona, dovrebbero essere legate tutte insieme, dimostrarsi legate tutte insieme. Pierluigi Sabatti presenta la nuova edizione di Infanzia Triestina, pubblicata da Bottega Errante Edizioni, a 20 anni dalla prima uscita. A dialogare con l'autore saranno Luca Zorzenon, presidente del centro studi Scipio Slataper, e Riccardo Cepak, responsabile del Museo Letz. L'incontro al Museo Letz alle 17.30. Di ritorno dalla Palestina, i segni della deumanizzazione è il titolo dell'incontro in programma oggi a Trieste. Fabiana Martini, giornalista, dialoga con Chiara Volpato, autrice del libro Deumanizzazione, come si legittima la violenza, al Circolo della Stampa alle 17.30. Presentazione del libro Bora di Rino Lombardi, fondatore del Museo della Bora e presidente dell'Associazione Museo della Bora, alla libreria Feltrinelli di Trieste alle 18. Il quarto appuntamento di Io sono Sinfonica, il concerto Big Silent Night Music, è l'ultima possibilità di vedere in Italia, assieme alla FVG Orchestra, il duo I Gudesman and Yo-ho, formato dal violinista russo Alexei Gudesman e dal pianista anglo-coreano Jung Ki-yo-ho, che ha comunicato lo scioglimento a gennaio dopo oltre 20 anni di attività. Sul palco si alterneranno commoventi classici ed esilaranti brani originali natalizi e di Capodanno, insieme agli intramontabili successi dei due musicisti, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine alle 20.30. E a Udine arriva invece l'iconico guitar hero Kiko Laureiro con il tour celebrativo del suo 35esimo anno di carriera, che propone una scaletta eterogenea, inclusi i momenti salienti della sua nuova uscita Theory of Mind, all'Auditorium Zanon alle 20.